Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Al Cacciatore di Libri abbiamo un po' un appuntamento fisso con Maurizio De Giovanni perché, insomma, lo sappiamo, è uno degli scrittori italiani più amati e ci piace parlare dei suoi libri. Ora è in libreria con Pane per i bastardi di Pizzo Falcone, pubblicato da Einaudi. È una nuova puntata, appunto, diciamo, chiamiamola così, della saga dei bastardi di Pizzo Falcone. Sono una serie di poliziotti che fanno parte di un commissariato a Napoli, appunto, di Pizzo Falcone. Sono chiamati bastardi perché hanno preso il posto di alcuni poliziotti corrotti. Insomma, abbiamo fatto un breve riassunto di chi sono i bastardi di Pizzo Falcone. In questo caso la vittima è un fornaio. È un fornaio, quindi, che fa il pane. Ma il primo capitolo io l'ho trovato particolarmente poetico perché ne parli di quest'uomo, della tradizione di fare il pane, della tradizione di portare avanti il lievito madre, di padre in figlio, eccetera, in maniera veramente molto poetica. Come mai hai deciso così di darci quest'incipit? Sì, innanzitutto lasciami salutare affettuosamente gli amici di Radio 24, gli ascoltatori di Radio 24 che mi sono particolarmente cari, come tu sai. Io credo che questa sia una storia di una contrapposizione fra la tradizione e l'innovazione. Noi molto spesso, in maniera veramente superficiale, un po' a spanne, riteniamo ogni innovazione un momento positivo, un momento di miglioramento. Non è sempre così. Anche negli oggetti di uso comune, quelli che diamo per scontati, quelli che ci dovrebbero sempre essere, spesso e volentieri si verificano dei conflitti anche forti. Il pane è uno di questi oggetti, è una cosa che noi diamo per scontata, ma scontata non è. Innanzitutto perché rappresenta l'alimento base, quindi banalmente la fame che riteniamo superata, rimaniamo che non ci sia, invece c'è ancora. Chiunque la sera abbia modo di camminare per strada vede gente che scava nei cassonetti, cosa che fino a 10 anni fa era impensabile. La fame esiste e il pane ne rappresenta l'esistenza. Poi il pane stesso è oggetto di diversi processi di lavorazione, alcuni industriali, innovativi, che consentono una grande quantità di produzione a fronte di una qualità in calo, in crollo, no? Il pane è buonissimo per pochi minuti, già la sera comincia a essere tutt'altro che mangiabile. Il pane cucinato con lievito madre, il pane infornato con lievito madre, lavorato con lievito madre, invece è un pane che rimane uguale per giorni e giorni. È un processo di lavorazione antieconomico perché implica molte ore di lavoro e una quantità prodotta molto minore, ed è perdente perché implica che il cliente tu non lo vedi per giorni e giorni. Quindi è il contrario di quello che dovrebbe essere il principio di marketing attuale, ma è anche un grande simbolo di quello che la vita è sempre stata, la vita delle famiglie riunite attorno a una tavola con sopra il pane. Quindi ho voluto lavorare su questo. All'inizio del romanzo dici proprio che, insomma, i bastardi di Pizzo Falcone ormai si sono un po' affermati, perché all'inizio erano visti un po' male nel quartiere, mentre adesso iniziano ad avere un loro peso. Però nel momento in cui arrivano per affrontare questo caso si trovano di mezzo la DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia, è un magistrato particolarmente antipatico. Quindi, insomma, c'è una guerra per chi possa gestire questo caso, anche perché l'ispettore Lo Iacono, che poi è uno di quelli che guida i bastardi, ha molti sospetti sulla morte di questo panettiere. Perché tu nei romanzi non metti mai omicidi, delitti che hanno a che fare con la criminalità organizzata, con la camorra, pur ambientando i tuoi romanzi a Napoli? Ma guarda, per due motivi. Il primo motivo è che non ne so abbastanza. Io credo che la criminalità organizzata sia un argomento che dal punto di vista narrativo vada trattato quando lo si conosce bene. Io non ho competenze professionali, non faccio il magistrato, non faccio l'avvocato, non ho vissuto in luoghi ad altissima concentrazione mafiosa, quindi non ne posso parlare con cognizione di causa. Trovo particolarmente grave, anche nella fiction narrativa, parlare di cose che non si conoscono. Secondo, perché è una macchina il cui funzionamento è talmente freddo, anche nel crimine, nell'applicazione del crimine, è talmente basato sugli interessi che sinceramente non mi divertirebbe nemmeno raccontarla. Mi diverte molto raccontare le passioni,

A proposito della fiction, tu hai lavorato proprio concretamente anche alla stessa fiction. Per uno scrittore, vedere i personaggi che ha immaginato nella sua testa diventare poi in carne e ossa e arrivare sullo schermo, o piccolo o grande, che effetto fa? È un'altra cosa? È un'altra storia parallela? O si cerca il più possibile di rispettare l'identità di quei personaggi? È un altro linguaggio. Quindi pensare di poter mantenere le atmosfere di un romanzo è perdente come idea, perché un'espressione di un viso e due pagine di descrizione di un sentimento sono due cose diverse. Io sono stato molto fortunato, questa è una squadra di attori di altissimo livello, molto ben diretti, con una ambientazione straordinaria, una città fotografata in maniera splendida. Io sono molto contento da questo punto di vista. Sono convinto che ogni lettore penserà che avrebbe fatto qualcosa di diverso, ed è giusto così. Sono convinto però che molta gente che avrà modo di vedere questa fiction sceglierà di leggere i libri, e credo che sia per noi che scriviamo libri una cosa importantissima, una grande opportunità di cui ringrazio. C'è una caratteristica nei romanzi di Maurizio De Giovanni, che c'è sempre un capitolo che è un po', come dire, quasi distaccato dagli altri, cioè non è funzionale alla trama, ma è di ambientazione. Cos'è un tuo vezzo? Perché lo fai? È una cosa che scelgo spesso di fare, mi piace. È come alzare gli occhi da qualcosa e guardarsi attorno per un attimo e poi ritornare con l'attenzione a quel posto. Qui il capitolo riguarda la fame. Riguarda la fame in chiave contemporanea, e devo dire sono molto contento. Io ho preso delle notizie nascoste tra le notizie di quel giorno in cui ho scritto quel capitolo. Ho trovato queste tre storie. Non sono delitti, non c'è niente, sono solo storie. E trovare quelle tre storie nella cronaca e metterle per dare l'idea di quello che succede attorno mi piace sempre tantissimo, e credo che dia al lettore l'aria che tira, la tinta base di cui è fatto quel quadro. E quindi è una cosa che scelgo di fare, se vuoi, nel mio minuscolo, perché io ritengo di non essere altro che un narratore, quindi non essere uno scrittore con ambizioni letterarie o cose del genere, ma da narratore è il modo che io do per dare al lettore la nota su cui io poi scriverò la mia canzone. I bastardi di Pizzo Falcone hanno tutti dei soprannomi dati un po' o dalle caratteristiche fisiche o da quello che hanno fatto nella vita. In questo caso però, visto che parli di pane, hai dato all'inizio proprio nella bandella dei soprannomi che riguardano il pane. Ne cito uno, per esempio Giuseppe Lo Iacono, che abbiamo già citato, l'ispettore Pane al Sesamo. Perché? Perché è siciliano. Quindi il pane al sesamo è una delle caratteristiche, ma anche perché il sesamo è una metafora delle idee, dell'intuizione. Il sesamo è un seme, un qualcosa che poi cresce, che lui questi semi ce li ha. Mi sono divertito, ed è mia la bandella, ed è mia sempre. Io, così come ho trovato gli incroci dei bastardi in Cuccioli, in cui dicevo che cani fossero, ognuno di loro in croce di che tipo di cane, mi sono divertito anche stavolta a parlare del pane. È un'idea che mi piace perché risponde un po' alla caratteristica del giallo Mondadori, ti ricordi? Cioè, quindi c'erano i nomi dei protagonisti. C'erano i nomi e si capiva, insomma, non dico in ordine di comparizione, ma quasi. E allora qua ci sono per esempio Francesco Romano, di cui parlavamo prima, detto Hulk, pane duro, e qui possiamo capirlo, insomma, che è riferito al suo carattere. Mi piace anche molto Marco Aragona, pane cafone. Sì, Aragona è terribile. Io nella fiction ho interpretato da quella meravigliosa persona, da quel gran ragazzo che è Antonio Folletto, straordinario attore, ma soprattutto un ragazzo di una bontà incredibile e di principi saldissimi, il quale mi chiedeva ogni volta che doveva recitare le parti, diceva: ma questo veramente le pensa queste cose? E io gli dicevo: sì, purtroppo sì. E lui era disperato nel dover interpretare questa persona così grossolana, divertente. Ecco, quando si scrive un romanzo corale, come si fa a dare una voce diversa a tutti i singoli personaggi e poi a farli crescere, a portare avanti le loro storie? Perché i bastardi, appunto, questo è il quinto romanzo, ma insomma si dà per scontato che proseguiranno, e quindi c'è sì il caso che si conclude alla fine del romanzo, ma poi ci sono le loro storie personali che vanno avanti. Ma guarda, io credo che serve un po' di umiltà. Cioè, lo scrittore deve farsi da parte, deve fare un passo indietro, non raccontare se stesso attraverso i personaggi, ma raccontare i personaggi. Se uno prende la prospettiva, la convinzione primaria, che i personaggi non ti assomigliano, come non ti assomiglia la gente, se sei... riesci ad avere un minimo di umiltà, tu, immedesimandoti nei personaggi, racconti persone diverse da te e quindi con linguaggi diversi, con culture diverse. Questo è una cosa che io da lettore ho sempre cercato e quindi, ora che mi ritrovo in questa breve parentesi della mia vita a fare lo scrittore, ci tengo moltissimo ad applicare questo principio. Cioè, lo scrittore non deve raccontare se stesso. Io capisco subito quando lo scrittore sta in realtà raccontando se stesso, perché un personaggio diventa talmente più ampio, più forte degli altri, da rendere gli altri bidimensionali. Io questo rischio non lo voglio correre. Grazie Maurizio De Giovanni, ora in libreria con Pane, una nuova, diciamo, puntata, episodio, possiamo anche definirlo così, per I Bastardi di Pizzo Falcone, pubblicato da Einaudi. Grazie. Grazie a voi e un abbraccio speciale a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il cacciatore di libri. In questo nuovo romanzo di Susanna Tamaro, La tigre e l'acrobata, si ritrovano un po' tutti i temi cari all'autrice. Il libro è pubblicato da La nave di Teseo. Più che un romanzo, diciamo, è una storia, è una favola che può essere letta da bambini, da ragazzi e da adulti, perché ha diversi, come dire, livelli di interpretazione. La protagonista è questa tigre che, insomma, viene al mondo insieme ad un fratellino e all'inizio si vede, insomma, la mamma tigre che si prende cura di loro, insomma insegna che cos'è il mondo. Fra gli insegnamenti insegna soprattutto ad aver paura dell'uomo, perché l'uomo può essere pericoloso per la tigre. Uno degli aspetti che mi ha colpito di più all'inizio di questo libro è che a un certo punto la mamma della tigre si rende conto che la sua piccola tigre non è capace tanto di andare a caccia. Cioè, quando va a caccia lei si distrae, osserva la natura, si fa distrarre dalla bellezza di altre cose. E come madre si preoccupa, si chiede, insomma, come farà a resistere da sola, a sopravvivere da sola. Che cosa volevi, diciamo, indicare con questo aspetto della vita della tigre? Ma vuole indicare la difficoltà che pone in una vita l'essere sensibili, l'accorgersi di ciò che gli altri non si accorgono. È qualcosa che ci rende fragili, ma è anche una grande ricchezza, naturalmente, una ricchezza che il nostro tempo attuale tende così a rimuovere. Sembra che è quasi un delitto essere sensibile, e invece è fondamentale. La tigre è sensibile, dunque, oltre alla sua natura di tigre, cioè, la usa per sopravvivere, ma non ha quella pienezza dell'aderire al suo destino animale che la porterebbe a essere completamente tigre. Lei si distrae perché si fa domande, è curiosa, vede altre cose, dunque nutrirsi va in qualche modo in secondo piano, e ciò ovviamente preoccupa la mamma essendo una tigre. In un certo senso questo libro può essere definito un romanzo di formazione, anche se la protagonista è una tigre, però ci sono tutti gli elementi, perché ci sono i momenti, appunto, della crescita, dell'incontro con il mondo e poi delle riflessioni anche esistenziali. Assolutamente, è un romanzo di formazione, anche se appunto tigresco, ed è un libro sulle profonde trasformazioni che ogni vita che vogliamo definire tale richiede per essere ricca, per essere completa, no? Perché viviamo in un mondo che ci pone un po' una dimensione di omogenizzazione, di fissazione unilaterale, invece la vita è complessità ed è comprensione e gestione della complessità. Dunque, questo è un percorso dalla semplicità alla complessità, alla ricerca di un senso della complessità. Alla ricerca di un senso della complessità, ma anche alla ricerca di un senso della vita, perché a un certo punto questa tigre, contravvenendo, insomma, le raccomandazioni della madre, in realtà si avvicina ad un uomo, ad un essere umano in carne e ossa, e con lui, insomma, inizia un'amicizia, mettiamola così, ma anche iniziano delle riflessioni proprio esistenziali e filosofiche. Per esempio, la tigre inizia a riflettere sul senso della morte. In questo senso perde la sua natura animalesca. Sì, naturalmente, perché l'animale dà la morte, cioè il più forte mangia il più debole, questa legge di tutta la natura che forse vogliamo un po' ignorare nel nostro mondo contemporaneo, ma è la legge, io mangio il più debole e mi vivo perché mangio il più debole. Ma quando ti interroghi, appunto distruggi la tua natura di grande predatore, perché tutto quel sangue, appunto, ti domandi che senso ha. E lei lo vive, questa tigre, proprio come se fosse un essere umano, perché tu scrivi: una mattina la tigre si svegliò e provò una specie di vuoto all'altezza dello stomaco. Non era fame, perché la sera prima si era divorata un cinghialetto. Era qualcosa di diverso. Da 2 anni ormai camminava solitaria e quel cammino cominciava a pesarle. La madre, il fratello e la vita senza pensieri della tana erano ormai sbiaditi nella sua memoria. Davanti c'era solo il nulla. Era quella la meta della sua vita. Sapeva che avrebbe dovuto costruirsi un regno, ma non le era ben chiaro come si facesse, soprattutto che senso avesse. Era forse quello il vuoto che sentiva in mezzo allo stomaco? In queste riflessioni della tigre, tu l'hai resa fondamentalmente umana a questo punto, perché sono riflessioni tipiche dell'essere Assolutamente, umano. Assolutamente, sono riflessioni che tutti prima o poi nella vita facciamo. Io l'ho fatta verso credo 5-6 anni, me lo ricordo benissimo, quando ho fatto questa riflessione su che senso avesse l'uso del tempo nel corso della vita, e da quello che scegliamo, da come ci poniamo rispetto a questa riflessione dipende anche il corso della nostra vita, perché possiamo, come dire, archiviare senza volerci rispondere, vivere nel nulla, oppure desiderare capire che senso ha fare un regno e come bisogna costruire il regno. Ecco, a proposito delle tue riflessioni da piccola, ricordo il tuo libro autobiografico in cui raccontavi proprio la tua storia e raccontavi di come fin da piccolissima avevi pensieri complessi e ti facevi domande sul senso della vita e i tuoi genitori non avevano gli strumenti per comprenderti. La scrittura ti ha dato quello strumento di comprensione, o almeno di, non dico consolazione, ma di aiuto nel sentirsi, insomma, contenuti in questa domanda che poi apre all'infinito. Certo, sicuramente la scrittura è stata un'enorme scuola di contenimento e di comprensione, mi ha permesso, come di elaborare, in fondo ogni libro che ho scritto è un tentativo di rispondere a una domanda che mi sono fatta da bambina, dunque la scrittura è stata la mia possibilità di crescere in tutti i sensi, anche di avere una vita equilibrata, armoniosa, perché ho affrontato tramite questa arma della scrittura le complessità della vita. E ho potuto soprattutto condividerle con tante persone che hanno letto i miei libri e dunque hanno fatto un percorso in qualche modo assieme a me, assieme alle mie domande, alle mie solitudini. Cioè le mie solitudini sono diventate in qualche modo delle compagnie anche attraverso la scrittura. Ritornando, diciamo, alla trama di questo libro, La tigre e l'acrobata, a un certo punto dicevamo la tigre fa amicizia, un rapporto di amicizia con un essere umano, si parlano in qualche modo, insomma si scambiano idee sulla vita, sulla morte, eccetera, però arriverà un momento in cui purtroppo l'uomo verrà ucciso, insomma, da bracconieri, e la tigre verrà portata in un circo, da qui l'idea della tigre e l'acrobata, perché in questo circo la tigre incontrerà un altro essere umano che lei sente vicino, soprattutto nello sguardo. Che cos'è che fa scattare questa compassione nel vero senso della parola, nel vero senso del termine? Ma gli sguardi sono molto importanti nella tigre, l'acrobata. Lei infatti parla soltanto con gli esseri umani o con gli animali che hanno la capacità dello sguardo, cioè di vedere al di là degli occhi, dunque di vedere l'anima. Dunque lei parla con lo sciamano, perché lo sciamano è uno che vede l'anima, è uno che ha rinunciato al suo potere di sciamano. Lei parla con l'acrobata perché l'acrobata è un bambino che fa l'acrobata, dunque è l'innocenza, la grazia, e non ha ancora il giudizio e l'opacità dello sguardo, dell'occhio che non è più sguardo in qualche modo, no? E gli sguardi sono fondamentali. Noi ci dimentichiamo che l'occhio è veramente la luce, lo specchio dell'anima, come diceva il Vangelo, ma come dice anche la medicina cinese, cioè attraverso gli occhi passa tutta l'energia della persona, no? Noi abbiamo occhi sempre più velati, sempre più timorosi di incontrare l'altro sguardo. Invece la vita è un incontro di sguardi, e la tigre incontra le persone che per lei saranno rivelatrici del suo destino proprio attraverso la riconoscenza dello sguardo, come in cui io ti riconosco e tu mi riconosci, possiamo parlare perché stiamo camminando nella stessa direzione. È molto bella quella parte in cui la tigre parla con lo sciamano, appunto con quest'uomo che ha incontrato, con il primo essere umano con cui ha avuto un rapporto d'amicizia, e riflettono sulla morte, perché la tigre all'inizio diceva: perché bisogna avere paura della morte? Non ha concezione della morte. E poi a un certo punto si rende conto: se lui muore, penso, allora sì, sarà questo per me il dolore più grande. Che cosa cosa scatta nella tigre in quel momento? Scatta la comprensione appunto dell'umanità, cioè che lei finora, la tigre dà la morte per mestiere, cioè in qualche modo, dunque non è legata a un'idea di strazio della morte. Per il momento in cui si lega a una persona che è unica per lei, incomincia a capire la sofferenza della morte, perché la morte è terribile per chi rimane, no? È devastante perché chi va via, no? Questa, l'idea di privarsi di questo rapporto così importante di amore è il senso profondo di dolore, di sofferenza per la morte. Dunque si umanizza in questo senso. Lo dicevamo all'inizio di questa intervista che la tigre e l'acrobata riprende un po' tutti i temi, cari a Susanna Tamaro: la natura, la riflessione sull'esistenza umana, sul senso della vita, il rapporto umano con l'essere umano, insomma, non con l'uomo, con la donna, ma con l'essere umano. Perché hai voluto racchiudere tutti questi elementi a te cari in una favola che, come dicevamo, può avere diversi livelli di lettura? Ho sempre pensato che la favola fosse il punto più alto della letteratura, perché la favola tocca la profonda natura umana e tocca la natura di tutti gli uomini, dunque lo consideravo dal punto di vista proprio letterario un vertice da raggiungere. Io ho sempre scritto per bambini delle favole, come sai, però è che un altro tipo di racconto, ma pensavo che era veramente importante adesso scrivere una favola per adulti, perché viviamo in un mondo così saturato di realtà narrative vuote, che per offrire una realtà narrativa che fosse ricca di dono bisognava raccontare una favola, perché adesso la favola tu torni bambino da un lato, entri in un mondo che non esiste da nessuna parte, con personaggi che non hanno nessun, diciamo, aggancio con la realtà quotidiana, però sono tutti personaggi che indicano qualcosa di archetipo, cioè qualcosa che tocca la nostra coscienza profonda e ci fa dunque emozionare e ragionare. Dunque era una mia grande ambizione, io sono sempre stata una grande lettrice di favole, però non ero quasi certa di non farcela, perché è stato un libro che mi è costato enorme fatica e molto spesso ho pensato che mi ero posta un compito troppo alto, e dunque è stato veramente un percorso accidentato. Però ringraziando il cielo sono contenta, insomma, la favola è compiuta. Perché era un percorso accidentato? Perché questo libro è stato così, diciamo, difficile, fra virgolette, rispetto ad altri? Perché finché racconti un fatto normale alle persone, segui gli eventi psicologici delle persone. Quando entri nel mondo del fantastico, devi assumere un altro ordine di eventi che sono imprevedibili, in qualche modo, anche per te che scrivi. Allo stesso tempo devi avere una lingua che deve essere di una distillazione alchemica, perché per raccontare la fiaba, se tu è come camminare su un crinale con lo strapiombo a tutte e due le parti, perché c'hai la banalità, l'ovvio, il sentimentalismo, tante cose, il fantastico vuoto, che è un'altra realtà, no? Che va molto il fantastico vuoto, ma è appunto un fantastico vuoto. E allora devi veramente distillare ogni frase, con ogni frase essere assolutamente quella e pregnante al 100%. Dunque questo lavoro di distillazione per rendere l'insieme dell'architettura coerente, intensa, emozionante, è un lavoro di grandissima concentrazione, di grandissima fatica anche. Grazie a Susanna Tamaro, ora in libreria con La tigre e l'acrobata, pubblicato dalla Nave di Teseo. È una favola, l'abbiamo detto, è una favola che però ha molte riflessioni intense sul senso della vita e sulla morte, quindi una favola che può essere letta dai ragazzi, ma direi che è una favola proprio per adulti, perché insomma gli adulti riescono a cogliere, diciamo, gli strati sotterranei rispetto a quella che è semplicemente la trama. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che per essere sempre aggiornati su quanto facciamo nelle puntate del Cacciatore di Libri potete seguirmi su Twitter e anche su Facebook nella pagina Il Cacciatore di Libri - Radio 24. Vi ricordo anche che tutte le puntate, anche quelle d'archivio, sono disponibili in podcast su radio24.it, scegliendo naturalmente la sezione Il Cacciatore di Libri. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.